Disco Dallas Senza Banana. Buon lunedì, cari amici e cari amiche di Fujiko Factory. Mauro, no, è martedì. Buon martedì. Lo so, è strano da dire, però per questa settimana va così. Questa settimana il disco della settimana parte un giorno dopo, ma potete sempre continuare ad ascoltarlo per un giorno in più, perché no? E magari ieri avete ascoltato Fujiko Factory e noi non c'eravamo. E vi siete chiesti dove eravamo? Ecco, la spiegazione è che stavamo decidendo che disco presentarvi, perché lo diciamo tutte le settimane, vogliamo presentarvi un disco che ci convince tanto e stavamo valutando se parlarvi del disco che alla fine appunto abbiamo deciso vi presenteremo oggi. Questo disco in realtà era un po' in forse perché il gruppo di cui parliamo in realtà ve l'abbiamo già raccontato e un pochino spammato, diciamo la verità. Sono una band torinese di cui abbiamo parlato tempo fa all'uscita del loro EP, insomma di un EP di qualche tempo fa, tutto in inglese tra l'altro. Poi se cercate negli articoli vedrete che troverete anche i The Spell of Dax, che hanno fatto uscire il 23 aprile 2020 il primo disco in italiano. Questo disco si chiama, guarda un po' te, tra l'altro è un po' strano come titolo, Ci vediamo a casa. Sono 9 tracce ed è un disco che è stato registrato presso il VIP Studio di Torino, perché appunto loro sono nati e cresciuti diciamo a Torino. Sono 9 tracce appunto che però mantengono la tradizione e l'ispirazione un po' folk che già vi avevamo appunto raccontato in passato, ma che appunto per la prima volta vede dei testi in italiano, che sono un po' strani perché è la stessa voce raccontata che racconta delle cose in italiano è diversa effettivamente, sembra quasi un gruppo nuovo. Ma io direi bando alle ciance, adesso ci fermiamo un attimo con la presentazione e vi facciamo ascoltare una traccia tratta da quest'album Ci vediamo a casa dei The Spell of Dax. E io direi che vi facciamo ascoltare Johnny. Ehi, Johnny. Johnny è un pezzo dedicato a un uomo che non c'è più. Un personaggio dall'aura potente col quale Andrea, chitarrista della band, ha percorso un tratto della sua strada e che ha provato a raccontare attraverso immagini e ricordi dei momenti trascorsi insieme. Quindi questa è Johnny. Era grandine d'estate che picchiava forte in terra, che scoppiava sopra il ferro di quell'auto come in guerra. Quella valle avrebbe amato per 100 anni ancora e ancora le cascate alle sue spalle e ai due lati le alte mura e la barba lì sul viso senza nessun altro fine se non somiglianza all'orso che giurò lui vivo. Giurò lui vide. Era neve che ballava tra le raffiche del vento, mentre io divento uomo dietro il vetro con te accanto e fumavamo il mio tabacco. Tu rollavi senza il filtro, ti girava il fumo intorno con le stelle poco altro. Il vino bianco è come mani sottili ed insicure, quello rosso è sangue vivo, mani sagge da ascoltare. Ascoltare. schiena era una diga, conteneva il mondo intero, dietro abissi di emozioni alle quali ero straniero. Ma appunto, torniamo a parlare della band The Spell of Dax e vi ricordiamo che oggi vi presentiamo Ci Vediamo a Casa, che è il loro primo disco in italiano, non il loro album d'esordio ovviamente, che è uscito un paio di settimane fa, il 23 aprile, insomma, è passata già qualche settimana. Gli Spell of Dax sono una band di Torino, appunto, che nasce dall'incontro tra Ivan Lionetti e Andrea Del Col. Questa formazione poi nel tempo si è arricchita e ha visto la presenza di diversi componenti che iniziano anche a portare nuove influenze in un qualche modo, e proprio per questo degli Spell of Dax iniziano a esplorare nuove strade sonore e compositive. Chissà cos'è che li ha portati poi a esplorare anche l'italiano come lingua cantata. Ma loro parlano un po' anche delle ispirazioni, che comunque si sente molto nella loro musica, no? I Mumford & Sons, Nathaniel Ratcliffe, ma anche in italiano Bruno Risas, Mannarino, un po' di Ennio Morricone, insomma tutta musica che poi viene miscelata e unita in quest'album Ci Vediamo a Casa. Di quest'album gli Spell of Dax ci dicono che è nato dalla necessità e dalla forte esigenza di voler scrivere e incidere canzoni in italiano. Ci pensavamo da tanto, iniziamo a parlarne, a scriverne ancora prima che uscisse il nostro EP Soup, che era totalmente in inglese. La cosa poi è cresciuta sempre di più durante il tour, grazie alle esperienze vissute e anche agli spunti che sono stati raccolti. Così, il giorno dopo la fine del tour, senza neanche accorgercene, eravamo già al lavoro sulla strada di Per Tornare a Casa. Il disco è stato anticipato dal podcast In Poche Parole Ci Vediamo a Casa. In poche parole, chiaro. Che è una tracklist con la voce dell'attrice Olivia Manescalchi, che recita i testi del disco. Una cosa un po' strana, una specie di teaser, però senza le musiche degli Spell of Dax. Ma insomma, infatti, è una roba particolare. Infatti dicono che è un progetto complementare, cioè è una cosa a parte, no? Che sta assieme ma di fianco. E serve appunto a far conoscere questo percorso in italiano attraverso una visione delle canzoni il più vicina possibile e fedele alla versione originale, quindi quella musicata che poi troviamo nell'album. Andrea, il chitarrista della band, spiega così questa collaborazione. Ho avuto la fortuna di conoscere Olivia circa 4 anni fa. In poco tempo mi sono appassionato al suo talento e al lavoro di attrice, così come lei è rimasta sorpresa e rapita dalla nostra musica. Quindi è stato un rapporto reciproco. Abbiamo capito subito che la passione per l'arte ci univa profondamente, così abbiamo iniziato a collaborare nel 2017, creando il videoclip del singolo War Song. Siamo rimasti in contatto seguendo con amore l'uno la strada dell'altro, e nel tempo, unendo idee, pensieri e necessità, è stato quasi naturale chiederle in prestito la sua voce per parlare e recitare i testi del nostro disco in italiano, dice Andrea. Perfetto, a questo punto possiamo continuare a scoprire allora Ci Vediamo a Casa, che ricordiamo è l'album che vi stiamo presentando oggi. Quest'album è uscito il 23 aprile ed è appunto il primo disco in italiano degli Spell of Dax. La terza traccia tratta da quest'album si intitola Chissà. Ci vediamo a casa? Chissà. Questo brano è venuto fuori di getto, da un respiro profondo fatto in un momento di forte emozione. La lucida scelta di sfruttare la sensazione viscerale di un amore non corrisposto per scrivere un testo, dando voce a ciò che grida la propria anima. Perfetto, ascoltiamo Chissà e poi torniamo da voi. Sarebbe dovuto accadere, ed è accaduto, di sentirsi una formica dentro un bicchiere e non sapere che aggrapparsi per uscire da quel pozzo, nei confronti del problema come porsi. Ma sarebbe stato meglio succedesse anni fa, perché rischio un bel infarto arrivato a quest'età. Che l'amor non corrisposto è dolente come tasto, grazie al cielo apre un mondo sterminato per un testo. E mi accorgo che fa male più di un pugno nella pancia, che ti lega mani e piedi, ma col tempo passerà. Ma chi lo sa? Mi spiace sia successo proprio adesso. Proprio adesso che ho provato a calibrare ogni mio passo, che pensavo di sapere, aver capito dove stare ed esser diventato immune nei confronti del dolore. ho tenuto ben lontano ogni vecchia convinzione, ogni ira, ogni pudore, ogni eccesso e a colazione. Lo sai bene, ho anche eliminato il mio succo preferito e i biscotti al cioccolato. E mi accorgo che fa male più di un calcio nei coglioni che ti lega e stringe forte, ma col tempo passerà. Ma chi lo sa? Ma torniamo a parlare di collaborazioni, perché oltre alla voce di Olivia Manescalchi, che appunto ha fatto un progetto parallelo all'uscita del disco, c'è stato anche un altro artista che ha partecipato a diciamo il lavoro che ruota attorno a quest'album, ed è l'illustratore artista torinese Cesco Rossi. Lui si è occupato appunto dell'immagine dell'album, il concept grafico sostanzialmente di Ci vediamo a casa. Sì, anche perché oltre alla copertina, diciamo, c'è una serie di illustrazioni che richiamano appunto il tema della casa. Illustrazioni come il progetto di un'abitazione, gli appunti, gli schizzi, le planimetrie, le frecce, tutto rigorosamente disegnato a mano, no? Come se fosse proprio il progetto di una vera casa. Il filo conduttore è l'arancione, un colore caldo e confortevole che in questo progetto indossa una tonalità fluorescente. Tra l'altro anche sulla copertina ci sono sti omini, diciamo, arancioni, e richiamano un po' la doppia anima classica e contemporanea insieme della musica dei The Spell of Dax. L'immagine di copertina, dicevamo, parte da una semplice foto scattata col cellulare, una casa di campagna che Ivan, il cantante, incontra quotidianamente sulla strada per il lavoro e che gli comunica un po' un'idea di luogo accogliente e benevolo, e si vede un po' dalla foto, no? E su questa istantanea di un ricordo sono rappresentati i componenti del gruppo con questo arancione, sono delle sagome, un po' come di un render architettonico. Ah, quindi gli omini arancio sono loro, ecco. Esatto. Le illustrazioni sono diventate anche animazioni, interni domestici in cui gli oggetti della quotidianità si animano nell'attesa di un arrivo. Chi sarà? Chi sarà? Chi è in arrivo? Chi è che ci suona il campanello così da un momento all'altro? Andiamo a vedere chi potrebbe essere in arrivo, facendovi ascoltare un'altra canzone. Visto che dicevamo che in questo concept c'è la presenza di una casa che è quella che ha fatto partire tutta l'immagine della copertina, io direi che la traccia che ascoltiamo adesso è La casa sull'albero. Tu hai mai avuto una casa sull'albero? No, però l'ho sempre voluta. Io al massimo ci mettevo tipo le coperte, facevo finta di una tenda. Una tenda sull'albero. Sì. Andiamo a costruire una casa. Intanto che ascoltiamo questo brano, allora andiamo a pensare, diciamo, a fare il progetto grafico della nostra casa sull'albero. Di questa traccia ci dicono gli Spell of Dax che è la storia di un figlio che con tutto il suo entusiasmo e la sua energia trascina il padre in un luogo magico per lui sinonimo di estrema sicurezza e protezione. Una casa sull'albero immersa nel bosco. inizia da un seme, finisce in un fiore. Ossigeno puro tra nuvole e sole. Per quanto sia grande si nasconde bene tra nidi di merlo e radici leggere. Ad esser sincero mi è sempre piaciuta, la posso abbracciare, la voglio curar. Peccato però non averla mai avuta, ma un giorno lo sai, ti ci voglio portare. Mi fido di lei come fosse mia madre, mi stringe di giorno e mi copre di notte. Il fiume e le rocce stan facendo a botte come quelle che mi dava mia madre. Servisse un mattone, ma credo che in fondo mi basti il rumore del legno che cambia e che scalda i sapori, quelli che in fondo nascono là fuori. Ci vado a pensare o a dimenticar, si accende la fiamma, vedo quello che c'è. Almeno qui sopra so che lo posso fare, se sposto le foglie in una tazza di tè. Di lei come fosse mia madre, mi stringe di giorno e mi copre di notte. Il fiume e le rocce stan facendo a botte come quelle che mi dava mia madre. Allora, prima di salutarci, rientrati dall'ascolto di un'altra traccia di quest'album, che vi ricordiamo si chiama Ci vediamo a casa ed è uscito il 23 aprile, l'album nuovo degli Spell of Dax, il primo in italiano, potremmo appunto darvi qualche informazione sulla band, sulla biografia della band e poi farvi ascoltare l'ultima traccia. The Spell of Dax sono una giovane band nata a Torino nel settembre del 2015. La formazione al completo conta 6 elementi: voce, chitarra, il banjo che suona anche le tastiere, basso, batteria e violino, un po' come Mumford & Sons come formazione, quindi molto folk rock, diciamo, no? Ma infatti tutti loro hanno delle sonorità e delle ispirazioni che sono internazionali, appunto. Dicevamo prima che sì, c'è la presenza di alcuni artisti italiani nelle loro influenze, ma i Mumford & Sons, per esempio, si sentono davvero tantissimo. E hanno brani scritti sia in inglese che in italiano, composti in maniera del tutto indipendente, cioè chi arriva porta un'idea e poi ci si costruisce sopra un pezzo, no? La band muove i primi passi esibendosi su palchi come lo Spazio 211 di Torino, il Teatro dell'Opera di Firenze, Apolide Festival, ah quanto mi manca Apolide Festival, il Teatro Ariston di Sanremo, lo Zeliga Milano, insomma, facendo più di 60 date solamente nel 2017. L'anno, sempre il 2017, ha visto anche la pubblicazione del loro primo singolo che si chiama Some Days, che è il singolo grazie al quale sono nominati artisti del mese da MTV Italia per MTV New Generation, entrando quindi nella programmazione del canale 708 di Sky, che insomma come trampolino di lancio non è male, no? Per entrare un po' in quel mondo. Sempre nel 2017 conquistano la semifinale del concorso Ziget and Home Sound Fest, esibendosi sul palco delle Lavanderie Ramone di di Torino e partecipano a Italia's Got Talent nelle fasi delle audition, dove tra l'altro hanno poi l'approvazione di tutti i giudici presenti sostanzialmente. Arriviamo però a novembre 2018 e vengono selezionati da Red Ronnie per la finale del Fiat Music, portando quindi sul palco dell'Ariston il loro primo singolo in italiano, che si chiama Giada. Il loro secondo EP, Soup, è uscito a maggio del 2019 e viene presentato al Jazz Club di Torino in una data sold out e vede la band in tour per oltre 20 date. Cioè, poi è stato presentato al Jazz Club di Torino, ma anche a Radio Città Fujiko, perché ovviamente noi l'abbiamo presentato, diciamo questa cosa. Come dicevamo all'apertura poi di questo disco della settimana, è proprio durante il tour, le 20 date appunto di Soup, che inizia a maturare l'idea di creare un album in italiano. Quindi proprio qui iniziano le prime idee e i primi spunti che portano poi appunto alla nascita del primo disco in italiano, che è quello che vi stiamo presentando oggi, che è Ci Vediamo a Casa, che è uscito il 23 aprile 2020. A questo punto noi vi abbiamo raccontato diverse cose di quest'album, speriamo che le tracce che abbiamo scelto vi siano piaciute, ma vi invitiamo a scoprirle tutte, perché le tracce sono 9 appunto. E a questo punto io direi che Scarpe Nuove, che è la traccia che apre Ci Vediamo a Casa, è quella che potrebbe chiudere questa puntata. Seduto nel bel mezzo di un giardino, a volte ci siamo ritrovati a riflettere sul mondo che ci circonda. C'è stato un tempo in cui ci siamo sentiti parte di lui, completamente immersi. Ora no, non più. E allora lo osserviamo, lo giudichiamo, lo prendiamo in giro. Questo è un po' quello che raccontano loro di Scarpe Nuove. Traccia che apre Ci Vediamo a Casa dei The Spell of Dax. Noi con questa vi salutiamo e vi diamo appuntamento a prossimi dischi e a nuove scoperte musicali. In realtà a domani, perché parleremo dei singoli del mese. A domani! Per sentire un po' meno il rumore, anche il silenzio sa essere perfetto. A volte invece mi immergo felice sott'acqua e il risultato tanto è circa lo stesso. Non ho pazienza di sentire il vociare, il gridare, rimbalzare tra bicchieri di birra. Mi ha un po' stufato sta piazza, è già lercia. Ed io che mi volevo sedere per terra. Come stai, come sto, tutto a posto, lo so, ma che belle le tue scarpe nuove. Come stai, come sto, tutto a posto, lo so, ma che belle le tue scarpe nuove. Sanno di merda. E quando passo distratto la lingua sul labbro, trovo un buco che me lo conferma. Si cambia tutti e la vita, ma alzate la testa, non fermatevi a guardare l'asfalto. Si prende polvere restando coi piedi per terra, è meglio correre guardando più in alto. Come stai, come sto, tutto a posto, lo so, ma che belle le tue scarpe.